tua bagheria non pagherai da manodopera. Dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E bentornati ad una nuova puntata dell'Onda in Onda, sempre dagli studi di Radio Panorama, dalle 18.30 alle 20.30. Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno vi tengono compagnia per il vostro pomeriggio fino, insomma, all'ora dell'aperitivo e poi alla cena, l'unico orario in cui potete lasciare la manopola della vostra radio. Prima dovete stare tutto il tempo con noi. Questa puntata abbiamo veramente ospiti di eccezione. Abbiamo Marco Dei Cosi, un bellissimo gruppo che consiglio a tutti quanti di ascoltare. Anzi, andatevi a cercare subito su Facebook la loro pagina facebook.com/icosi. E poi, insomma, due grandi ospiti d'eccezione che, insomma, tengono compagnia all'umanità da circa, da quando è nato il mondo, si fanno la guerra da sempre. Sono Dio e il diavolo, che sta continuando la sua collezione di pentole senza coperchi. Andiamo in esclusiva l'intervista a Dio e Diavolo, tra l'altro, perché penso siamo la prima radio, sì la prima radio in assoluto ad avere proprio Dio e Diavolo in carne e ossa, insieme che hanno sotterrato l'ascia di guerra per questa puntata. Verranno con noi in diretta, quindi rimanete, perché guardate che sono veramente proprio loro, Dio e il Diavolo. Quanti di voi hanno dubitato della loro esistenza? Esistono, sono qui e ci terranno compagnia durante tutta la puntata. Anzi, per chi non lo sapesse, insomma, ci seguiranno anche su Twitter, quindi Onda in Onda come hashtag, seguiteci, perché, insomma, ne vedrete e ne sentirete soprattutto delle belle. Ovviamente, prima di iniziare dobbiamo dare i contatti. Potete scriverci un SMS al 380 76 90 204, ripetiamolo, 380 76 90 204. Vedere lo streaming in diretta da radiopanorama.eu o .info, e poi seguire l'Onda in Onda, la nostra pagina facebook.com/ondainonda, twitter.com/ondainonda, e poi, insomma, il nostro sito radiopanorama.eu/indovina? Onda in Onda. Bravissimo. Ma non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra bellissima sigla personalizzata proprio da Piotta. Cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Onda in Onda, pombo, clap, piodo, cerchiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani. E quanto resisterete voi senza l'Onda in Onda? Pochissimo, pochissimo. Infatti l'Onda in Onda non va mai in vacanza e vi terrà compagnia per tutta l'estate. E noi qui a morire di caldo, mentre voi sarete al mare con la vostra radiolina portatile. Sei tu a morire di caldo. Io a morire di caldo, in effetti tu c'hai... Dalla redazione, esatto. L'aria condizionata proprio sul collo, va bene. Allora, prima di iniziare devo dirvi che il mio co-conduttore ritarda, come al solito. Io lo licenzierei se fossi... Qui dalla redazione stiamo valutando. Stiamo opinando di... Opinando. Ma che significa? Perché opinando? Opinando significa pensando. Non lo sapevo. Che significhi pensando, no. Ma va bene. Sì, io lo licenzierei, insomma. Non è un buon conduttore. Troppo in ritardo. Allora iniziamo subito con qualche notizia di quelle che, insomma, vi fanno discutere a tutti. E ovviamente su quale notizia possiamo battere? su quelle sul sesso. Troppo sesso con una delle mogli, le altre 5 lo stuprano a morte. Io vorrei essere veramente l'uomo della notizia. Dove è successo? In Nigeria. Una storia che ha dell'incredibile, quella che arriva dalla Nigeria, appunto. Un uomo d'affari, marito di 6, è morto, secondo fonti investigative citate dal Daily Post, dopo essere stato costretto ad una maratona di sesso con le 5 mogli gelosissime della più giovane. La maratona di sesso, ne avevamo già parlato, se ricordi, con la graziata signora, un po' sovrappeso, la donna più pesante del mondo, per curarsi, sì, con l'ex marito, tra l'altro. E, insomma, la vittima era stata era solita dedicare attenzioni speciali sotto le lenzuola. Uroko Onoya stava appunto avendo un rapporto sessuale con la sua favorita quando le altre hanno fatto irruzione nella camera da letto brandendo coltelli e bastoni e pretendendo che l'uomo si presentasse a fare sesso con ognuna di loro, tutte in fila. Onoya era riuscito a soddisfare 4 delle donne sotto la costante minaccia di essere infilzato prima di esalare il suo ultimo respiro, proprio mentre la quinta si stava infilando sotto le lenzuola. Una volta resasi conto del decesso, le asseritrici si sono date alla fuga facendo perdere le proprie tracce nella foresta vicina. 2 mogli sono state catturate ed arrestate. L'accusa formulata dalla polizia è quello di aver stuprato a morte l'uomo, descritto dai concittadini di ecco, io lo sapevo che c'era, ovviamente. Ma è ovvio, tu dicevi le notizie. Ogdadi come un filantropo che aveva contribuito positivamente alla crescita della comunità locale. Le donne si erano riunite tutte insieme intorno a un tavolo per mettere a punto un piano che consentisse loro di rivendicare propri diritti coniugali. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti da parte dei sanitari, ma si vocifera, insomma, che l'uomo sia morto felice. Si vocifera anche che la quinta donna sia in stato di libertà e quindi, siccome è stata insoddisfatta, sì, possa anche venire qui anche a Radio Panorama. A Radio Panorama, e insomma, vediamo. Se c'è Andrea Massaro, una maratona la potremmo fare anche noi. Basta che non ha coltelli e bastoni. No. Senza coltelli e bastoni, poi si ricorda un po' Lorena Bobbitt. Va bene, partiamo subito con il primo pezzo e poi ritorniamo subito dopo. Stai ascoltando L'Onda in Onda. I see you over there, so hypnotic, thinking about what I do to that body. I get you like, ooh baby, baby, ooh baby, baby, ooh baby, baby, ooh baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Magnetic, magnetic, got one. gli ospiti di oggi sono in missione per conto di Dio, anche se insomma sono due che insomma uno dei due si contende molto la sua inimicizia, diciamo, perché appunto sono Dio e il Diavolo, come abbiamo preannunciato, e con l'aiuto di Terraferma Edizioni, casa editrice di Buona Volontà, Dio e il Diavolo hanno pubblicato un libro che si chiama Idiozie e Diavolerie, che al momento è disponibile solo in versione ebook. Lo potete trovare praticamente ovunque, insomma, nell'ebook store, su Amazon, per i tablet dell'iPad, su iPhone, insomma ovunque. Insomma, vi invitiamo tutti quanti a comprarlo, 5,99 euro. E la cosa bella è che i soldi di questo libro andranno devoluti in beneficenza ai terremotati dell'Emilia. Ci siamo occupati più volte su questa radio intervistando i cantanti del progetto Iper, ovvero Indipendenti per l'Emilia Romagna e Lombardia. È venuto con noi ai nostri microfoni Piotta, Cisco, Capovilla del Teatro degli Orrori, che hanno parlato appunto di questo progetto per la ricostruzione dell'Emilia Romagna e Lombardia. Ma qual è la differenza? La differenza è che appunto, visto che se ne sono sentite di tutti i colori per quanto riguarda la beneficenza, Dio e il Diavolo hanno deciso di fare loro la beneficenza, e quindi diciamo hanno sotterrato l'ascia di guerra e insomma stanno cercando di vendere questo libro per raccogliere i fondi. E le vendite diciamo si fermeranno a 3.000, insomma, anzi no, scusate, l'obiettivo delle vendite è di arrivare a 3.000 copie vendute per devolvere questi soldi, e da 3.000 copie vendute in su doneranno non più il 50% ma il 70% dell'incasso. Voi direte: perché solo il 50% e non il 70%, perché solo il 50% e il 70% e non tutto? Perché insomma loro ovviamente non prendono i soldi, ma è la casa editrice che prende la parte dell'incasso. Ma qual è la novità? La novità è che proprio oggi Dio è sceso giù dalla terra, dalla sua nuvoletta, è sceso proprio qui sulla terra, è andato a parlare con una delle scuole che verranno ricostruite grazie ai soldi dell'acquisto degli ebook. Quindi ne avremo notizie più avanti, quando verrà ai nostri microfoni, si impossesserà dei nostri microfoni, forse del mio regista, prenderà proprio sì, sarà proprio indemoniato e inviato. Inviato, tutte e due, sì, mi sa che prenderà un'orgia dentro di me. Un'orgia dentro di te, esatto, una maratona di sesso dentro di te, e insomma ne sapremo di più, soprattutto per quel che riguarda la scuola, avremo notizie proprio più avanti. E niente, vi invitiamo ovviamente a comprare il libro. Sì, perché costa pure poco. Costa pure poco, 5,99 euro, e loro scrivono le motivazioni perché bisogna comprare questo libro. È facile: perché costa meno del cinema, perché costa meno di una pizza e una birra, perché costa meno di un panino in un fast food, e perché non fa guadagnare nemmeno un centesimo né alla casa editrice né quei montati di due autori che si sentono tanto fighi e spammano in continuazione su Twitter. Quindi insomma ce ne sono un po' di motivazioni per cui bisogna comprare questo libro. Bene, avendo detto questo, io aspetto sempre il mio co-conduttore e vi lascio alla prossima canzone. Corriente, ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tú recuerdas. quanti di voi hanno fame, insomma, a quest'ora del giorno? Sono quasi le 7, viene un po' di fame, vero? Sì, è l'ora dell'aperitivino. È l'ora dell'aperitivo, e chi non vorrebbe mangiare un bel... No, chi non vorrebbe bere un bel martini con un po' di rocce, diciamolo. Un po' di rocce. Di, sì, però martini on the rocks? Sì. Presente, no? Però sì, proprio rocce, non però... come Roger Rabbit che portava il pinguino, portava le rocce al posto del ghiaccio. Questa signora invece gli piacerebbe molto questo tipo di bevanda. Chi è? È una signora di Roma che ha rosicchiato 1360 kg di rocce negli ultimi 20 anni. Ma io poi, scusa, aspetta. Già, leggendo questa prima frase, una domanda mi sorge spontanea. Sì. Ora, questa si è messa a contare tutti i grammi di roccia in 20 anni che si è mangiata? Non lo so, effettivamente non lo so. Lei ha confessato in un'intervista di essere affetta da piccacismo, un disturbo del comportamento che porta a mangiare sostanze non esclusivamente nutritive. Ma è la malattia di Pikachu. Sì, è il piccacismo. Esatto, però no, non si è evoluta lei. La donna ha anche aggiunto di aver placato la sua fame nell'ultimo anno, da quando si è sposata. Il suo marito gli chiede, la rende così felice che ha cominciato a mangiare meno, dice. Ma tutti hanno giornate nere e quando le capita solo il mangiare rocce riesce a farla sentire meglio. La signora mangiapietre ha anche spiegato, in base a quale criterio sceglie i suoi snack. Prendo quelle che dall'aspetto mi attirano di più. Mi piace il sapore di terra, a volte succhio con gusto. Mi piace il loro sapore di fango. Insomma, oh, c'è no. Anche sul succhio con gusto lasciamo avanti. Passiamo avanti. Però c'è proprio il video della signora che mangia la terra e la spacca anche con un martello. La chiamiamola, cioè è italiana, la chiamiamo. Dovremmo chiamarla e vedere che cosa ci dice. Però ho paura, magari sta mangiando, sai, non è bello disturbare la gente che mangia. Invece c'è una persona che ha un disturbo al contrario, perché lei è di Londra, è Sasha, e beve 25 litri di acqua al giorno. Sì, e si vede dalla foto, la fonte è di Leggo, è una bizzarra dipendenza quella di Sasha Kenny, di 26 anni, che beve fino a 25 litri d'acqua al giorno. La donna, madre di due figli, non riesce a trascorrere più di pochi minuti senza bere acqua e va in bagno una media di 40 volte al giorno. Sasha è stata costretta ad abbandonare diversi posti di lavoro a causa della mancanza di acqua per le troppe volte in cui era costretta ad andare in bagno. La donna, al The Sun, ha dichiarato di dormire al massimo per 15 minuti di fila durante la notte, perché altrimenti si sveglia per bere o per andare in bagno. Ho sempre sete, ha dichiarato al tabloid. Sento sempre necessità di bere acqua. Sasha, per fare meno maggiore chiarezza su questa sua continua sete, si è anche rivolta a dei medici, che però non hanno attestato alcuna patologia, ma solo una sua dipendenza dall'acqua. Sin dall'età di 15 anni beveva fino a 13 litri d'acqua al giorno. E adesso è una... Adesso è ridente, una bitumera con l'acqua. Sì, una bitumera. Era, come si dice qui in Sicilia, con tantissima acqua che beve. Ma fatti le flebo, no? Cioè, mettiti una flebo d'acqua. Sì, in effetti potrebbe... La signora sotto aveva anche l'acqua in altri posti. Sì, la signora sotto ne parleremo più avanti. Io vorrei dare alcune notizie per quel che è il sabato sera qui nella provincia di Palermo. Questo fine settimana? No, io questo Massaro. Fine settimana... No, non niente di speciale. Sono stato a casa a fare casa, la maglia. A fare il programma, in realtà. Sono stato a fare la maglia, dai, va bene. Diciamo che sei stato a fare la maglia. Sì, va bene, no, diciamo invece una cosa, che l'altra volta avevamo annunciato del concerto di Tiziano Ferro, che sarebbe stato a Siracusa, e non si è concluso nella migliore delle maniere, perché hanno dato fuoco al suo camion. Come? Sì, a quanto pare per un ingresso negato al concerto, un ingresso gratuito negato al concerto, non so bene chi sia lo soggetto, chi ovviamente. Sia, sì, infatti il soggetto, ha trovato le ruote in fiamme, spento tra l'altro dal suo staff, e quindi insomma i migliori auguri a Tiziano Ferro per questa intimidazione. Tanti auguri, però, insomma, a Tiziano Fuoco. A Tiziano punto, Fuoco. A Tiziano Fuoco. Esatto. Invece ci sarà Giorgia a Palermo, al Teatro della Verdura, alle ore 21.30, 69 euro poltrone, no, poltronissima, 57,50 la poltrona, 35 euro posto unico, e il tour di Giorgia farà tappa in Sicilia ad agosto, questo ovviamente per sabato. Il concerto sarà in un villaggio attraverso, in un viaggio tutta la sua, vabbè, ok, va bene, sarà un viaggio attraverso tutta la sua carriera, dai suoi più grandi successi del passato e le nuove hit, l'album Dietro l'apparenza è uscito a settembre 2011, quindi insomma io vi consiglio di andarvelo a vedere perché Giorgia è veramente bravissima. Ok, passiamo subito al prossimo pezzo e poi vediamo di metterci in contatto con i nostri ospiti, ma subito dopo la pubblicità. We'll be right back.

Economia a monti a Helsinki, se lo spread non si raffredda l'Italia potrebbe ricorrere allo scudo. Londra 2012, canoa, slalom, molmenti e d'oro. Calcio scommesse, la commissione disciplinare, il patteggiamento per Conte non è congruo. Tra poco nel GR, restate con noi. Quattro cose causano più della metà di tutti gli incidenti stradali: mancato rispetto della precedenza, guida distratta, velocità eccessiva e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Quando guidiamo non mandiamo in vacanza anche il cervello, neppure d'estate. A tutti l'augurio di vacanze coi fiocchi da Piero Angela. Quest'estate sulle strade dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti. L'impossibile non è un dato di fatto, è solo un'opinione. Niente freni. Libera la tua voglia di cambiare look con la tecnologia di Stylmi Pro Hairstyler. Scoprirai e proverai in 3D virtuale se il tuo nuovo taglio di capelli e il colore che hai scelto funzionerà. L'impossibile oggi è possibile con Stylmi Pro, lo specchio 3D che sta rivoluzionando l'hairstyle. Realizza i sogni dei tuoi clienti. Installa nel tuo negozio Stylmi Pro. Chiama il numero verde 885 84 90. 885 84 90. Sono gli eventi impossibili a rendere le cose straordinarie. Stylmi Pro, lo specchio 3D dell'hairstyler. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Economia in apertura di giornale. L'idea di base è che proprio in questo momento l'Italia non sembra avere bisogno di aiuti particolari. Mario Monti è volato in Finlandia e con il premier Katainen cerca una soluzione alla crisi, al pericoloso lievitare degli spread sui titoli di Stato. Un'intesa tra i due paesi che sembra funzionare, tanto che il premier finlandese durante una conferenza stampa congiunta spiega: da Monti ho capito che la situazione è ingiusta, non solo per noi. Ed ora spazio alle Olimpiadi di Londra, una gara capolavoro, Daniele Molmenti e medaglia d'oro nel K1 canoa slalom. Per l'Italia si tratta del terzo oro di questa edizione dei giochi, in tutto sono 9 le medaglie conquistate fin qui dagli azzurri. Per Molmenti la vittoria odierna è da considerare un vero e proprio momento di riscatto dopo il quarto posto di Pechino 2008 che lo aveva molto amareggiato. Torniamo in Italia, il processo per il calcio scommesse entra nel vivo. Prima giornata è già un colpo di scena la proposta di patteggiamento del procuratore Stefano Palazzi per Antonio Conte, una squalifica di 3 mesi e un'ammenda di 200.000 euro, respinta poi dalla commissione disciplinare perché ritenuta non congrua. Intanto in mattinata una ventina di ultras juventini hanno accolto Palazzi con insulti e striscioni offensivi. Cambiamo argomento, parliamo di musica, sentiamo il servizio di Francesco Vitale. Per la prima volta in Italia, oggi a Roma, al Conservatorio Santa Cecilia, la Palestine Youth Orchestra, gruppo di 60 giovani musicisti palestinesi giunti nella capitale dopo aver suonato a Genova e Firenze. Nata nel 2004 e oggi diretta da Sian Edwards, l'orchestra si basa sui valori dichiarati di riscoprire la propria identità e rompere gli stereotipi. Non è semplicemente musica, ma un modo per unire le persone e abbattere le barriere. Il presidente Napolitano ha inviato un caloroso saluto ai giovani artisti che attraverso la musica ci offrono un'altra testimonianza di dialogo e di speranza. In chiusura il meteo, temperatura alle stelle almeno fino a Ferragosto, l'estate 2012 è anomala ed eccezionalmente calda e i prossimi 10 giorni saranno veramente infuocati almeno al centro-sud. Saranno battuti i record del 2003, ma vediamo nel dettaglio le previsioni per domani, giovedì 2 agosto. Al nord condizioni stabili e soleggiate, al centro cielo generalmente sereno, al sud ampio soleggiamento un po' ovunque. È tutto, le news tornano domani mattina. Ascoltando L'Onda in Onda. One, two, party in the country jail. A te Regina Celi non t'ho visto mai. Quella porta che sta via al Ghebrai. Non lo voglio sapere che ci hai fatto ormai. Non me far giaguaro, non me far capore. Non sei più il ghepardo del 99. Ma che fine hai fatto? Ho strafatto di qualche schifezza. Lo dico con molta franchezza, che tanto non sei caparezza. Brr, piotta, ha, ha, ha, piotta. Ti levo dal mio stereo che la sfiga è troppa. sono il quinto nel re della figa, bro. Chiama lo suono diverso, per me solo sfiga, bro. La figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, il pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la porta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto. One, two, party, sesso e rock and roll. Ma taglia dei capelli se vuoi falli pop. Fate un tatuaggio, fate tutto il braccio. Fate almeno un suf che respira da voraccio. Viva Falura come Elvis the Pelvis. Ma tu sei romano, mica sei de Memphis. Al freeway senza te con la grana e il moe. Baba fighe epiche, mio tutto il club. Your name is what? Your name is who? Your name is non spacci, manco come zetto, non sei del ghetto. Zio, Roma è nostra, quindi portaci rispetto. La figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, il pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la porta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? Io c'ho troppo odio contro Piotta, c'ho troppo odio. Vendetta vera contro Piotta. Anche la mia ragazza mi ha detto che lui non era una persona veramente cattiva, anche se voleva fare il cattivo. E invece non sta in galera. Io c'ho troppo odio contro Piotta. La figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, il pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la porta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? La figa non c'è, la Ebbene, rientriamo subito dopo la pubblicità. E questa era Piotta, che insomma ci ha fatto anche la nostra sigla. È tornato il mio co-conduttore dopo la sua assenza nella prima parte di questo programma. Ciao Antonio. Che poi c'è sempre il dubbio se co-conduttore è la parola esatta, è perché tu balbetti, quindi dici co-conduttore. Sì, esatto. Sì. Ciao Brumma, ciao, ciao Brumma. Antonio, ciao. Ci stanno seguendo da Twitter perché fra poco avremo in intervista Dio e il Diavolo. Che non sono mica due non tipi, sono cioè, mica. Non è che te li trovi tutti i giorni. No, infatti, non li trovi mai tutti i giorni, soprattutto in una radio che parlano, no? Sai, sì, che sì, poi sì, si sì. Dice la voce di Dio non si può ascoltare. No, noi l'ascolteremo. Sì, sì, sì, interagiremo con lei. Esatto, esatto. Anzi, saluto tanti amici nuovi che ci stanno ascoltando, come Marco e vabbè, Roberta, Silvana e due amici che se ne stanno andando all'acquario. Esatto. Ciao. Ciao Peppe, ciao Peppe. E come abbiamo preannunciato poco prima della pubblicità e nella nostra anteprima del programma, abbiamo qui con noi in diretta Marco De Icosi. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti voi. Ciao, come stai? Ciao Sicilia. Ciao. Bene, bene, grazie. Allora, il vostro ultimo album è uscito da poco, abbiamo già un vostro pezzo in sottofondo, Canti Bellicosi, un album che insomma parla più che altro di, come si può dire, di conflitti, no? Come mai sì, questo tema? Chiamiamoli così. E soprattutto prima di sapere il perché dell'album, perché i Cosi? Ecco, infatti, andiamo a monte. I Cosi, vabbè, è stata un po' una trovata anche divertente fra di noi, che siamo persone abbastanza divertenti e ci piace così creare anche un po' di, non lo so, la gente con questo nome ha sempre avuto particolari problemi, nel senso che venivano fuori cose del tipo che noi ci citofonavamo da qualche parte perché avevamo un appuntamento, e siamo i Cosi è sempre un rischio, perché se c'è una persona dall'altra parte che non ne sa niente, come spesso ci capitava, ecco, non si trova nelle situazioni così imbarazzanti. Dall'altra parte, a parte il divertimento del nome, è anche una questione così un po' provocatoria per togliere un po' l'importanza a questi artisti, a questi nomi altisonanti delle band, e ritornare un po' ad apprezzare quelle che sono le canzoni dentro un disco. Beh, è anche comodo quando uno dice: ah, guarda, stasera vado a vedere i Cosi. Ma chi? No, no, davvero, vado a vedere i Cosi. Sì, come Aurora, ad esempio, mi è successo che ho detto: adesso chi abbiamo in intervista? I Cosi. Ho detto: vabbè, ok, ditemi il nome magari. No, no, no, i Cosi, come non ricordi? Sì, perché lì per lì non ricordavo, sì. Allora, Canti Bellicosi, che giochi ancora su questo nome, il tema di conflitti, ma perché proprio conflitti? È un concept album di 10 pezzi? Sì, vuole essere proprio un concept album, un ritorno a quel tipo di progetto che è intorno a un disco, che non è soltanto le canzoni che magari nascono in sala improvvisando con la band così, ma è un concetto un po' più ampio in cui si cerca di rimanere all'interno di un tema dominante, che è quello dei conflitti, e il perché come spesso accade, perché i diretti interessati li vivono sulla propria pelle. Sono stati anni, tra il primo e il secondo disco, sono stati degli anni molto burrascosi e quindi abbiamo a un certo punto deciso, ma anche naturalmente ci è venuto un po' di affrontare questi conflitti in una terapia di gruppo, appunto, nel senso di band, sì. E abbiamo messo i conflitti nel disco invece di poi affrontarli e magari parlare d'altro nel disco. Senti, è il vostro secondo album dopo Accadrà, ma è vero quello che diceva Salvemini, il buon Caparezza, che il secondo album è più difficile nella carriera dell'artista? Cioè, non so il terzo, perché ancora devo farlo, però il secondo di sicuro è molto più difficile del primo, perché ci sono un sacco di pressioni, ma non dall'esterno come uno magari può immaginare, chissà, magari no, vengono proprio da dentro le pressioni. Non è più come quando arrivi a fare il primo disco dopo una vita che ci speri e neanche ti rendi conto in qualche modo di farlo. Le canzoni ci sono lì da sempre, ti seguono da quando hai imbracciato la chitarra per la prima volta, mentre col secondo è più una questione proprio anche di decidere in che direzione andare, cioè, verso quali lidi portare la band e la musica che si sta affrontando. Poi nel nostro caso siamo partiti da dei riferimenti molto importanti come quelli della canzone italiana, per cui l'idea era quella di sviluppare questo tipo di concezione della musica, però distaccandosi anche dai riferimenti nel secondo disco, cioè evocare quel tipo di musica ma più nell'attitudine che nei fatti. Senti, sì, no, Antonio, volevo fare una domanda. Ma ad esempio, tra il primo e il secondo album, questa è una cosa che mi incuriosisce sempre, avete sviluppato le idee, avete composto le nuove canzoni più o meno vivendo negli stessi luoghi, oppure avete cercato ispirazioni da qualche altra parte? Non so, un viaggio, può essere anche un weekend fuori, oppure cambiare proprio per un periodo l'ambiente in cui frequentavate le vostre giornate, trascorrete le vostre giornate. Cioè, è stato lo stesso il background tra il primo e il secondo disco? No, è stato completamente diverso. In effetti nel primo disco il background di riferimento era comunque Milano, che è la nostra città, per cui vivendo tutti e tre a Milano ai tempi era davvero una cosa in cui la città parlava molto nel disco. E mentre in questo secondo disco, tra chi si è spostato dalla città, tra chi magari ha avuto figli e cose, diciamo che i cambiamenti naturali, cioè proprio a livello biologico, ce ne sono stati talmente tanti che poi i luoghi per forza di cose sono cambiati. E in questo disco, per esempio, cioè, ci siamo spostati anche un po' fuori dalla città, nelle bellissime campagne che sono tutte intorno, in posti sicuramente più bucolici. Non so se questo in che modo ha influito nel disco, ma sicuramente l'ha fatto. Adesso che avete fatto anche un mini tour con il camioncino della Red Bull anche in Sicilia. Quello ci ha permesso per la prima volta, per esempio, di venire a suonare in Sicilia, a Palermo. È stata l'unica tappa ed è stata un'esperienza veramente indimenticabile, quel pulmino lì degli anni 60 e noi sopra, insomma era veramente una tournée alla vecchia, ed era la prima volta che la facevamo proprio così on the road da Milano in Sicilia, quel traghetto, insomma è stato davvero molto bello. Senti, non ci era mai capitato che qualcuno facesse quello che avete fatto voi, cioè partire da un'etichetta grossa come la Warner e poi diventare indipendenti. Come mai? Cioè... il canone inverso. Esatto. C'è stata questa... Cioè, insomma, la vita va poi come deve andare. Non l'abbiamo deciso noi che alla prima volta che andiamo in Warner a portare la demo a loro piaccia così tanto, ci hanno fatto fare il disco subito, è stato tutto molto bello, io mi ricordo soltanto cose belle, anche se poi sicuramente non è stato solo così. Poi ci siamo ritrovati però in qualche modo anche appiedati, cioè, onestamente parlando, a un certo punto quando in un'azienda come Warner o come Sony o come insomma le major in generale, se non porti a casa i soldi non è che c'è futuro all'interno di questa struttura, perché è una struttura che ragiona così in maniera aziendale. Per cui a un certo punto, dopo 2-3 anni di militanza in Warner, diciamo che non è che ci abbiamo dato il ben servito, ma si capiva che insomma le possibilità di continuare a lavorare con loro erano veramente ridottissime. Beh, a un certo punto noi abbiamo colto l'occasione anche per buttarci totalmente nel nostro progetto, per continuare in maniera più pura possibile anche. Avete fatto felice il pubblico indie, diciamo. Ecco, sì, ma è assurdo perché quando poi eravamo con Warner abbiamo partecipato tantissime volte a vari festival di musica indipendenti, perché comunque nell'animo, cioè, avevamo sempre questo atteggiamento molto poco da ortodosso, più indipendente, sì, esatto. Esatto. Senti, ricordiamo quali sono gli altri cosi e poi brevemente se sei in tour e i progetti per il futuro. Allora, vabbè, saluto tantissimo Antonio. Oltre al tuo co-conduttore, sì, esatto. Grazie, Antonio Messi. Infatti sto dicendo grazie. Messisca, sì, alla Messisca, la batteria. E anche il nostro bassista, nonché alle preziose seconde voci, e Alessandro De Ida alla batteria. Che è il batterista anche delle Vibrazioni, ricordiamo. Che sì, sembra così, ecco. Sembra così, non è così. È proprio lui, è proprio lui. Esatto. Va bene, siete in tour? Siamo in tour in senso light adesso, perché ci stiamo preparando per la vera tournée che inizierà a settembre, diciamo, per cui abbiamo dei concerti in centro Italia che sul sito www.icosi.it si possono vedere meglio le date con più precisione, e da settembre sicuramente saremo in giro per tutto autunno, inverno, e volendo la primavera, estate, autunno, insomma. Le stagioni sono quelle. E noi ti auguriamo tantissima fortuna e un grande in bocca al lupo. Allora Marco, ti ringraziamo per essere stato ospite qui con noi, ci ascoltiamo il tuo pezzo Universo e vi salutiamo, ascoltatelo, ciao. Grazie a voi, ciao. Puoi fare pezzi inconsistenti, sezionare ogni angolo di noi. Dentro puoi distruggere gli specchi per scordarti che m'aspetti, tanto io saprò. Saprò darti un bacio lungo quando tutto l'universo ed ancora. Travestimento, tutto stupido silenzio, parla tu, che forse io imparo le parole solo se le dici tu, e allora sì, allora io saprò, saprò darti un bacio lungo quanto tutto l'universo. Ed ancora di più, ed ancora di più. Thank you. siamo tornati qui in diretta da L'Onda in Onda su Radio Panorama. Nell'acquario c'è un piragna che si muove, un deficiente con la cresta rossa che fa altrettanto. Hanno trovato la chiave, adesso sapete cosa farne. C'è Eleonora, salutiamo anche chi ci ascolta, tipo Giovanni, detto Manuel, per la somiglianza con Manuel Frattini, Giorgio e Angela e tanta altra bella gente. E soprattutto salutiamo tutti i nostri amici di Twitter che ci stanno ascoltando, perché sono in attesa di sentirli, no? Di sentire proprio... Ma possiamo introdurli come un'altra volta? No, non possiamo. Perché abbiamo la pubblicità, li introdurremo subito dopo, ma prima ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso. Andrea, ti fa segno il regista dietro, c'è Stai sciallo, carmate. E va bene. Non c'è bisogno di cuore. No. Ma perché abbiamo la pubblicità che incombe. Sì, vabbè, allora, prima della pubblicità voglio ricordare un appuntamento lunedì 6 agosto alle Terrazze. No. Sì, vai. Prego. No, prego. Vai, no, le se terrazze... non va bene. Se no... Sì, lunedì 6 agosto un one shot presenta la notte delle sirene alle Terrazze dei Candelai. DJ set Mr. Sinclair, ingresso 5€. Bene, io invece stavo parlando del libro appunto che hanno scritto, diciamo, a quattro mani, o insomma le loro infinite mani, Dio e il Diavolo, i due storici personaggi di Twitter con migliaia e migliaia di follower, che hanno raccolto in questo libro i loro migliori tweet da quando, diciamo, hanno creato i loro personaggi. E vi invito tutti quanti a comprare il libro, 5,99€, come ebook. Lo trovate praticamente, sì, in ogni store, su Amazon, su ebook store, sui più grandi book store, più grandi, sì, esatto. E fate un po' di beneficenza, perché sì, i soldi che verranno raccolti verranno devoluti in beneficenza, e si spera di arrivare quanto prima alla vendita di 3.000 copie. Ma non hai detto lo scopo, per la ricostruzione, per la costruzione dell'Emilia, esatto, sì, dei, no, l'avrei detto dei paesi poco, colpiti, perché noi ce ne stiamo occupando, diciamo, da parecchio tempo, da parecchie puntate, ne abbiamo parlato anche con, per quel che riguarda il progetto Iper con, indipendenti, insomma, per sì, Romagna, sì, e Lombardia, con Cisco Piotta, sì, e Capovilla, insomma. Quindi vi invitiamo veramente a comprare questo libro e stare collegati. Qual è il titolo? Il titolo è Idiozie e Diavolerie, con due D, sì, e, insomma, perché il personaggio di Dio è Iddio, in realtà è L-D-Dio, però vabbè, insomma, vi invitiamo ovviamente anche a seguirlo su, sì, Twitter, sia Iddio che il Diavolo. Il Diavolo, io tifo per il Diavolo, guarda. Tu dici? Sì, allora no, io tifo per Iddio. Sì, tu devi tifare per forza per Iddio, io tifo per il Diavolo. Ma sì, ma quando ho visto la descrizione sopra me ne sono innamorato. L'unico che entra sempre nei bagni delle donne, perché fuori c'è scritto Signore, cioè quella sì, è genialità pura. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi, sì, farci? Invece il Diavolo, insomma, sta ancora smaltendo la collezione di pentole senza copertina. Sì, sì, sì, quelle della Diego. Sì. Insomma, niente, vi invitiamo veramente a comprare questo libro e soprattutto a rimanere in diretta, perché ci spiegherà proprio Dio e il Diavolo, ci spiegheranno dove saranno devoluti questi fine soldi, faranno, esatto, esattamente questi soldi. Proprio oggi hanno raggiunto, sì, un accordo per la ricostruzione di una scuola, a quanto pare, quindi ce lo diranno fra pochi minuti, poco prima della pubblicità. E prima di ascoltarli ci ascoltiamo un pezzo e poi subito dopo la pubblicità è Dio e il Diavolo. I'm

per quello avremo tempo finché saremo vecchi. Ci sta che mi bacchetti quando semino getti. Per i piatti non fatelo, perché se ti metti a letto con il tuo pigiama con la faccia di Betty, boh, ti incazzi per i calzini infetti. Tu se ti ci metti tu poi non la smetti più, nei battibecchi tu mi sottometti tu. Però in effetti con i tuoi modi schietti esprimi concetti corretti, perfetti. Ti ringrazio perché in fondo così un po' mi correggi tu. Ma dopo gli scherzi dai bacetti a carezze, ossia al cuore a pezzi e chiami il tuo caro attrezzo. Non ti lascerò mai a piedi bimba se mi prometti che saremo sempre il primo dei tuoi progetti. Amore non so se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie, sai perché? Quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so. L'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei. Ma molti non ci capiscono perché si amano ma non si uniscono, no. Hanno gli anelli, molti convivono ma non ridono. Amore non so se resto vivo senza te, ma voglio dirti grazie, sai perché? Per quello che ogni giorno tu sei per me. Scusa se non te lo dico spesso, ma io lo so. L'amore che ci metti in ciò che fai, in tutte le attenzioni che mi dai. Tu sai bene io chi sono e io so chi sei, e so che se ti perdessi mi perderei. Ebbene, rientriamo in diretta con il collegamento più difficile dell'umanità. Sì, diciamo, che è il più atteso il dell'umanità. Più atteso, cioè, guarda... Io so che Barack Obama ha detto sbaraccate tutti dalla mia Casa Bianca, perché io ho un collegamento molto importante. Guarda, è veramente quello che l'umanità attendeva da tempo, sia insomma chi è dalla parte del bene che chi dalla parte del male. Ma penso anche agli atei, cioè chi non crede in nessuno dei due. Dice, cavolo, ma allora esistono, che ci stiamo a fare? Insomma, hanno una voce. Sì. Hanno una voce, immagino, insomma, che si saranno impossessati di qualcuno, perché sai, scendere proprio qui, scendere o salire, no? Nel luogo terreno è complicato, sì, anche per loro. E sono, l'abbiamo pronunciati, sono Dio e il diavolo, li abbiamo in diretta, vediamo se riescono a sentirci. Pronto Dio? È pronto diavolo? Pronto, ciao. Eccoli, allora chi è il diavolo e chi è Dio? Io sono il diavolo. Tu sei il diavolo e quindi l'altro è Dio. Ciao diavolo e Dio. No, insomma, io sono emozionatissimo. Io da morire, io la tachicardia. È il collegamento veramente più atteso della storia dell'umanità. Ma come vi trovate? Dove siete? Siete nei vostri anfratti o siete scesi qui impossessandovi di due corpi sulla Terra? Ah, chi risponde per primo? Facciamo una cosa. Prima risponde Dio, sì, e poi il diavolo. Sì, prima Dio. Niente, io sono tra le montagne dell'Emilia Romagna, perché è un po' credo di essermi perso, ma a breve ritroverò la retta via. Ah, è per questo che non rispondi mai quando ti chiami. Sì, ero in un posto un po' scomodo. Invece il diavolo, dove si trova il diavolo? No, io sto comodamente a casa mia. E si sente, infatti, la voce è come se fosse qui dentro di noi. Esatto, cioè, esatto. Dentro il nostro corpo, pazzesco. Ma il diavolo è così, funziona così. Il diavolo è dentro ognuno di noi. Incomincia così, poi dopo le si sente. Le comodità, tutto lui. Quello che si fa il mazzo sono io qua. Lo sappiamo, caro Dio, lavori tanto. Lavori ma tanto. Voi avete mai pensato di convivere, non so, prendere un appartamento insieme, così? Ma siamo impazziti, ma... Per voi le coppie di fatto, insomma, non possono esistere neanche con due entità così burrascotte. No, no, possono esistere, è lui che non sopporto. La nostra sicuramente no, le altre vediamo, ma questa no. Le altre sì, Dio, le altre Dio sì. È sempre scettico su questo punto. Allora, voi vi siete, diciamo, avete sotterrato l'asce di guerra per questo libro che avete scritto, diciamo, a più mani. Non so, ognuno quante, di... Infatti, quante sì, ne avete? Risponde prima a Dio. Anche con la coda. Sì, esatto. Dio quante mani ha? Ah, volendo infinite, ma per questa volta ne sono bastate due. Ah, perfetto. Ma scusami Dio, giocavi a dadi mentre scrivevi il libro? Aspetta, non ho capito. Giocavi a dadi mentre scrivevi il libro? Sì, anche, quello si fa, allora fa parte dell'onnipotenza. Smentiamo Einstein che dice che Dio non gioca a dadi. Esatto. Quindi avete scritto questo libro a quattro mani, vi siete trovati insieme e così, come mai, da quando vi è venuta l'idea? Quando è che vi siete illuminati o folgorati? Vi siete guardati negli occhi e avete detto, insomma, qua c'è da fare qualcosa di molto più importante che supera le nostre rivalità? chi va per primo? Va per sempre primo, Dio. Sempre Dio, sempre diavolo, scusaci. Ma così mi offendo. Facciamo una cosa, per questa volta facciamo parlare prima il diavolo. Sì, dai. Sì, sì, dai. No, dai, diciamo che era un'idea che avevamo già da un po'. Poi quando abbiamo sentito che c'era stato questo terremoto in Emilia, abbiamo deciso di poter fare qualcosa. Diciamo che noi ogni giorno scriviamo, chi ci segue lo sa, scriviamo cose che fanno sorridere, ed è un qualcosa che fine a se stesso su Twitter. Sì. C'era la volontà comune di farlo diventare un qualcosa in più. È stato ottimo. Dio, quindi ti sei fidato dell'idea del diavolo? O l'idea è venuta a te? Sì, sì. Ci siamo fidati a vicenda, insomma, abbiamo messo insieme il meglio del nostro peggio, diciamo. Ma scusate, le sciocchezze messe lì, ecco, speriamo che piacciano. L'idea sarebbe appunto di tramutare questo enorme dispendio di risorse e tempo, che sarebbe Twitter, cioè tempo passato a scrivere nella maggior parte dei casi battute, sciocchezze, insomma cose frivole, tramutarlo in un impegno serio, insomma una cosa seria, come appunto dare un po' di soldi ai terremotati. E insomma, finora abbiamo detto terremotati genericamente, oggi siamo riusciti a metterci in contatto con una scuola, ci sono stato di persona, è per questo che sono sperduto qui in Emilia. E ecco, praticamente si tratta della la scuola elementare Carlo Alberto dalla Chiesa di Massa Finalese. Quindi scuola elementare di Carlo Alberto dalla Chiesa di Massa Finalese, segnatelo. Sì. Gli ascoltatori, quindi chi acquisterà il libro, che è un ebook a 5,99 su sì, maggiori diciamo ebook store sì, contribuirà alla ricostruzione di questa scuola. Come ricostruirete? Cioè comprerete delle suppelletti, li pagherete? Il fatto è che hanno diversi problemi, l'edificio principale è un po' lesionato, ma non è completamente inagibile. La palestra è crollata, ha dei danni molto, molto grandi, ma appunto l'edificio principale no, e questo ha consentito a dei simpatici sciacalli di entrare e rubare tutto. Hanno rubato computer, soldi, risorse varie, poi nel senso se la sono presa comoda, hanno anche avuto il tempo di fare danni e vandalismo vario, proprio un lavoro completo. Dei veri bastardi. Dei deficienti, purtroppo, bisogna dirlo, la mamma dei deficienti, GR Gira, è sempre gravida. Sì, e qui ci dobbiamo ringraziare anche la casa editrice che ha creduto in noi, Terraferma. Esatto, e molte persone si chiedono, come voi avete però già risposto, io ho anticipato alcune vostre risposte, ma meglio che le date anche voi, perché la gente dovrebbe fidarsi di voi, soprattutto fidarsi del diavolo. Cioè, appunto, sì. Per la beneficenza. Dobbiamo saperlo, dobbiamo spiegarlo. Ragazzi, perché in Italia la beneficenza la può fare soltanto uno che si chiama Ligabue, Jovanotti? Diciamo, è un qualcosa che qualunque aiuto, secondo me, può essere è il benvenuto, soprattutto fondamentale, quando... certo. Esattamente. Diciamo che noi, vabbè, contiamo su una grossa comunità di persone che ci seguono, chi ci segue ci conosce. Abbiamo sentito la voglia di poter fare qualcosa, ripeto, è un qualcosa su cui noi su Twitter giochiamo continuamente, ed era per noi importantissimo poter dare un segno che anche dallo scherzo può venire fuori qualcosa di buono. Sì, esatto, di serio, di palpabile. Io penso, esatto, che i nostri ascoltatori si saranno accorti comunque che Dio e il diavolo, almeno a giudicare dalla loro voce, sono ben localizzati nello spazio, ovvero, se ho capito bene, Dio viene dalla Toscana o qualcosa del genere, no, e il diavolo è napoletano. Umbro, vabbè, siamo lì, Umbria, Toscana, quella zona lì. E invece il diavolo è napoletano, lì. Sta di Indovesuvio, non so, da qualche parte. Cioè, chiedo a lei, chiedo venia, chiedo. Vabbè, sarà impossessato di qualche sì, probabilmente sì, del guardiano del Vesuvio, non sappiamo. Perché comunque fa caldo, si trova a casa sua, si trova sì, come a casa. Sì, è lì, è sì, contento sì. Nel suo vulcano. Sì. Senti, diciamo che sono venuto in vacanza da voi, visto il caldo che si sente. Sì. Esatto. Senti, diavolo, ma appunto, molta gente si è chiesta perché il 50% dei proventi, avete detto fino a 3.000 copie, devolverete il 50%, e oltre 3.000 copie il 70%. Perché queste percentuali? Perché diciamo il costo normale per poter mantenere l'ebook all'interno degli store su cui viene distribuito. quindi diciamo che poi da arrivati alle 3.000 copie riusciamo anche a poter dare qualcosa in più, perché quel 50% che viene trattenuto dagli store passa ad un 30%, e quindi in beneficenza si passa dal 50 al 70%. Ci tengo a precisare che sia io che il diavolo che Dio perché per me è un diavolo, quindi hai ragione. Per me lui è cattivo, ecco. Un attimo, no, Dio stava dicendo qualcosa. Dio, dicevi, scusami che non ti abbiamo sentito. No, dicevo non mi chiamare diavolo, che non va bene. Sembrano Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che litigano. Si immagino lui che scalcia sotto. Sì, prego diavolo, prego. No, niente, dicevo, arrivati alle 3.000, diciamo che in beneficenza viene dato tutto ciò che era previsto come royalty per me, per Dio e anche per Terraferma, quindi diciamo tutto quello che è extra, le spese per il mantenimento del libro negli store va tutto in beneficenza. Ah, perfetto, perfetto. Vabbè, perché sarebbe inutile presentarsi e dire guarda, un po' ne prendiamo noi, un po' lo diamo a loro, ma no, sì. Cioè... è pessimo proprio, no? Quindi non possiamo farlo neanche volendo, quindi noi non prendiamo una lira, la casa editrice neanche, e tutto quello che possiamo dare in beneficenza lo diamo, il resto è per i distributori, ecco. Senti, Dio, ma per quel che riguarda invece proprio l'idea di raccogliere questi tweet, è più che altro l'idea già di creare questi personaggi, com'è nata? Allora, per quanto mi riguarda, per caso ero lì che cercavo dei altri fake account, tra l'altro oggi Repubblica mi ha messo in mezzo alla sua raccolta settimanale di fake account. Sì, perché ovviamente cercavamo tutti quello vero di Dio, io immagino. No, però c'ha nel senso dicono che sono fake, sono proprio dei pessimi atei comunisti proprio. Allora diciamolo chiaramente, facciamo un appello a Repubblica. Cara Repubblica, che insomma vai in cerca di notizie. Caro Ezio Mauro, parliamo direttamente col direttore. Sì, caro Ezio Mauro, noi abbiamo Dio qui ai nostri microfoni. Se non vuole intervenire, anzi. Un fake account, se Ezio Mauro vuole intervenire, noi non lo facciamo parlare. Perché, sì, insomma, vabbè, ma se loro twittassero adesso Ezio Mauro, intervieni e mo vediamo chi è il fake. Infatti, io credo che si collegherebbe. Twittate a Repubblica, sì. Che se vogliono chiamano qui in diretta al 380 76 90 204, al 091 78 45 230, e vediamo qual è il fake account. Ma sì, vanno sul sito radiopanorama.eu e troveranno tutto. Insomma, posso, se mi permettete un attimo? Sì, prego. Su Repubblica si parlava di fake account e hanno parlato di lui, non di me. Questo già la dice lunga. Mi sa che il diavolo ci ha messo lo zampino. Qua c'è il diavolo che ha messo lo zampino. Non è che era firmato Belzebù l'articolo? Sì, io ricontrollerei. Però sai, vedi che il diavolo c'ha questa voce profonda. Sì, no, proprio... non è modificata, è proprio, proprio la tipica risata del diavolo. Sì, è quello vero. So fare anche di peggio. So sì, facci sentire, dai. No, ti prego, no. Come no? Non fatemi pregare. Vedi? Ha detto ti prego. Ti prego. Ha detto ti prego. Vabbè, perché lui, in effetti, il diavolo, essendo un umanista, no, chiede di pregare, esatto, all'uomo. Cioè, esatto, prega, esatto, all'uomo. Dio, quali sono le buone azioni che hai fatto oggi, a parte andare a incontrare la scuola per la quale... Ah, ricordiamo il nome della scuola, Dio. Ah sì, scuola primaria Carlo Alberto dalla chiesa di Massa Finalese. Ok, quali sono le buone azioni? Diciamo anche a Repubblica, così la smette di fare vacca. Le buone azioni, ho evitato di imprecare in mezzo al traffico, perché mi sono fatto 300 chilometri e ne ho visti un po' di tutti i colori e sono riuscito a non imprecare, perché complimenti. Mi imprego da solo e non è bello, no? Bene, sono riuscito a trattenermi. Bravo, bravissimo. E allora, potete capire quanto sono simpatici Dio e Diavolo, quindi per chi non li conoscesse li aggiunga su Twitter, Diavolo. Improvvisamente Andrea era diventato un personaggio. Sì, no, perché non si trovano proprio con scrivendo Dio e Diavolo, ma c'è questo gioco di font che permette di identificarli così. Ma una domanda, scusate, forse sono io l'ignorante che non lo sa, magari faccio una domanda ovvia, ma voi due come vi siete conosciuti? A parte la notte dei tempi, voglio dire, esatto, quando il buon diavolo è stato cacciato. Allora quando ci siamo rivisti, diciamo. Esatto, sì, dopo essere stato cacciato il buon diavolo, quando vi siete rivisti? Sempre attraverso Twitter, insomma, l'ho visto lì, gli ho detto ma sei ancora qua? Dice sì, allora niente. Ah così. Quindi sì. Se c'è la domanda chi è nato prima, l'uovo o la gallina, in questo caso Dio e il diavolo su Twitter, non è dato sapere la risposta. No, non è dato sapere. No? Esatto, lasciamo lì nella notte dei tempi anche questo. Ma scusa, comunque non è che mi ha cacciato, me ne sono andato io. Esatto, questo è il classico, come il ragazzo che ha 18 anni me ne vado io da casa, non siete voi che mi cacciate. Voi. Scusa Diavolo, ma mettiamo per una volta in chiaro tutta questa situazione. Ma due domande, insomma, dalla notte dei tempi. Sì. La mela, c'eri veramente tu dietro o è un complotto di Giacobbo? Esatto. È tutto un complotto. Lo sapevamo. Il Sandro un complotto per rendere la donna schiava dell'uomo. Esatto. Io guarda, comincio a stimare sempre di più il Diavolo. E invece... ma non è giusto, abbiamo anche Dio in linea. Adesso io tengo per Dio. Dio lo stimi tu. Invece, grazie. Scusami. Prego. Cosa ha detto? Grazie, mi ha ringraziato, vabbè, se sì, lo stimo. Sì. No, e perché te ne sei andato dalla casa di Dio, caro Diavolo? È perché voleva togliere il sesso a tutti gli angeli. No, non si può fare. Io resto sempre l'ha fatto. Lo sappiamo, purtroppo. Senti, allora fate un appello prima, dai, facciamo di nuovo prima Dio e poi il Diavolo, perché la gente dovrebbe comprare il vostro libro e cosa ci troverebbe di veramente bello da leggere sotto l'estate, soprattutto. Comincia Dio. Sempre io, dovete comprarlo perché è una nobile impresa il tentativo di tramutare i casseggi in una cosa buona, perché insomma in fondo mi piacerebbe che, come dire, alla fine, avendo raccolto abbastanza soldi, si possa dire tutti insieme a questo sistema italiano che spesso funziona male, per dire: oh, noi siamo riusciti a fare una cosa buona in tempi brevi, com'è che non ce la fate voi? Ecco, se ce la facciamo a toglierci tutti insieme questa soddisfazione, insomma, sarebbe una bella cosa. Ecco, siccome si sentiva un po' male, ripetiamo perché non ha capito bene, sì, che Dio voleva, forse non prende bene il tuo contatto ultraterreno o terreno, anzi in questo caso. Ora sapete perché non sente le preghiere. Cioè, ma il Diavolo è incredibile. Diavolo, l'ha scritto su Twitter, ha detto lo straccerò un'altra volta. Sì. Adesso il demonio ci dirà perché comprare questo ebook. Perché volete leggere tutti del Diavolo uno dopo l'altro. Il rispetto anche per i tuoi... scherzando si dice la verità, diceva qualcuno. Prego. No, è fondamentalmente per lo stesso motivo che ha detto lui. Perché possiamo dimostriamo che quando le cose partono dal basso poi possono diventare più belle di quelle che ci si aspetta. Allora, una domanda, l'ultima: uscirà un cartaceo oppure rimarrà sempre un ebook? Al raggiungimento delle 3.000 copie troveremo il cartaceo. Quindi... E allora dai, non è un'impresa impossibile, anche perché voi in due avete credo 70.000-80.000 followers, forse, sì, di infatti... più. Quindi si può. 5,99€, costa meno di una pizza, quindi compratelo, sì. Ormai tutti hanno una carta prepagata per comprare online, se non l'avete, insomma, fatevela. Sì. 5,99€, compratelo, l'editore Terraferma. Quando vi ricapita un libro scritto da Dio e il Diavolo. Infatti, proprio da loro in carne e ossa. Sì, va bene, allora, caro Dio e caro Diavolo, rimanete con noi in puntata, noi ci ascoltiamo un pezzo, salutiamo Repubblica, zio Mauro, salutiamo tutti e ci ascoltiamo un pezzo di Nelly Furtado, Big Oops, Bigger the Better. Yeah.

per il giardino, per la tua casa, Vivai Sala Verde. Il centro specializzato in piante ornamentali per esterno ed interno. Professionalità, serietà e tutta l'esperienza che solo 20 anni di professionalità possono garantire. Vivai Sala Verde, una vastissima scelta anche di piante da giardino e piante da frutto. Vivai Sala Verde, a Cefalù, sulla strada statale 113, al chilometro 191. Info allo 0921 93 1107. Vivai Sala Verde, da 20 anni, al vostro servizio. Sono le ore 20:01. Stai ascoltando L'Onda in Onda. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. See the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn, God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get. E rientriamo subito dopo la pubblicità, sempre con L'Onda in Onda. Ma si sente il calore anche in radio, dopo radio parlato col demonio. Sì. Siete sempre su Radio Panorama, questa è L'Onda in Onda, e con noi sono sempre presenti il diavolo e Dio, che insomma ci seguiranno fino alla chiusura quasi del nostro programma. Sì. E possiamo dire che... No, togli quasi, fino alla chiusura. Fino alla chiusura del nostro programma. Sì. Possiamo dire che i tweet che stanno arrivando sono veramente divertenti. Qualcuno ci chiede, ma voi l'avete comprato l'ebook? Sì, insomma, l'ebook di cui abbiamo parlato proprio adesso, che è quello che hanno scritto Dio e Diavolo, Idiozie e Diavolerie, da disponibile in store. Senti, in Diavolo, store, su per 5,99 euro. Diavolo, ci arriva voce che attendi i bambini. No, sì, sono i demonietti che vivono all'inferno. Ah, ok. Ah, Dio c'è? Sì, prego. Ora c'ho le prove, come diceva un famoso film. Sì. Allora, ci arrivano un po' di tweet, ma voi l'avete comprato l'ebook, scrive Giulia, miscredente, vero diavolo? Chi è miscredente? Dico, lei è una miscredente perché non crede che noi abbiamo comprato l'ebook. Sì, no, non l'avete comprato, stavo io, ve l'ho suggerito io. Infatti. Comunque quindi... vedi che volendo l'hai fatto, non volevi fare una battuta, però si potrebbe fare il concorso Miss Credente. Miss Credente, sai sì, che... Sì, sì, sì. Bellissimo, dai, bellissimo. Perché non lo organizzi? Perché da un po' ci scomunicano. Aspetta, c'è Dio che stava parlando, dimmi Dio. No, un'idea bellissima, facciamola subito, Miss Credente? Sì, potete, guardate, lanciate il concorso Miss Credente tra tutte le tweet follower donne o anche trans, non so se qualche trans vuole partecipare, che avete nel vostro profilo. E sai che Dio non è sempre a favore dei trans, è il diavolo che c'è a favore. E allora, il diavolo organizzerà il Miss Credente per i trans e per gli etero invece lo organizzerà Dio. Sì. Beh, si può fare, l'ho sponsorizzato ovviamente con l'onda in onda, noi saremo con voi. E io direi di eleggere la prima Giulia come Miss Credente. Giulia è una candidata. Puoi già leggere, non sai, c'è anche Ilaria, ci sono tante qui. Sì. Oh, ma voi gli avete dato il messaggio che vi ho scritto prima a lui, perché lo sento male. Sì, è arrivato. Guarda, io non so se possiamo dirlo, ma caro Dio, il diavolo ti salutava, se possiamo dire così. Sì, ma non è stato in modo carino, il Dio, non ti salutava in modo simpatico. Dice che sei un po' quell'animale nominato sempre da Sgarbi. No, non mi stupisce mai. Ah, è vero, esatto, voleva che ti appellassimo con quel nome lì, ripetuto molte volte da Sgarbi. Ma io per esempio dico, voi non avete età, ma più o meno che età avete? Ma chiedi quanti anni ho. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Cosa? Non ti ha detto? Pronto? Tutti. Ce li ha tutti. Cavolo, lui è, e sì, il diavolo? Il diavolo è... io un po' meno di tutti perché sono venuto dopo. tutti meno qualcuno. Senti, allora, diciamo ovviamente nuovamente la campagna per il libro Idiozia e Diavoleria. Sì, perché se fosse collegato solo adesso, dopo sì, pubblicità. 5,99€, tutti gli bookstore, ovviamente farete un'offerta per quel che riguarda i terremotati dell'Emilia e la scuola, ricordiamolo nuovamente, caro Dio. Allora, la scuola di Massa Finalese si chiama Scuola Primaria Carlo Alberto della Chiesa. Carlo Alberto della Chiesa, perfetto. Di Massa Finalese. Senti, Dio, capisco che tu... è saccheggiata pure, diciamo, perché sarebbe doppiamente sfortunata, insomma, cioè se noi diamo la mano a poverini. Allora, Dio, capiamo che tu hai inventato e hai creato il campo, però credo che dovresti spostarti lievemente col tuo apparecchio, perché non arriva esattamente la voce, cioè arrivano alcuni suoni strani, quindi proviamo a intuire... È strano, non so cosa fare. Sposta un satellite. Esatto. Posso dire una cosa? Sì, certo, prego. Diavolo, sempre. Lancio uno spot, se Dio non ti ascolta è perché c'è un telefono di merda. E questo è un tweet che potremmo inserire come slogan sui ebook, cioè sull'ebook, su Amazon, sui siti in cui acquistarlo. Cioè, il diavolo è felicissimo. Lo posso usare anche come scusante, poi ci siete voi testimoni, dico guarda, non mi prende il telefono. Lo sanno anche quelli di Radio Panorama. Sì, in effetti. Ma che fa da sponsor al digitale terrestre? Parla un po'. C'è il diavolo che, insomma, si sta veramente bombardando. Attendiamo una reazione di Dio, cioè non si può. Sì, sì. No, senti, devo essere corretto, sono una linea precisa da mantenere, sennò. Un po' più, diciamo, di savoir-faire. Sì, sì. Sentite, l'ultima cosa prima di salutarci è ricordare nuovamente il vostro libro. Ma questa storia del 2012 è vera o no? Esatto, il 21 dicembre dobbiamo stare tutti chiusi in casa a fare per l'ultima volta l'amore, ci andiamo a buttare dalle cascate del Niagara, facciamo bungee jumping, oppure continuiamo a vivere tranquilli leggendo il libro Idiozie e Diavolerie. Sì, questa cioè, la seconda che hai detto. Questo lo dice Dio, diavolo? Dedicate tutto il vostro tempo a fare bungee jumping con la carta igienica. Ok, seguiremo il consiglio. Chi vorrà seguire? Fregate la fine del mondo, non fatevi fregare, fregatevi prima voi. Esatto. Va bene, allora noi ricordiamo il concorso Miss Credente, appena lanciato qui dai microfoni dell'Onda in Onda, grazie a Dio e al diavolo. E ricordiamo soprattutto di acquistare il libro nei maggiori bookstore. Vogliamo dire su quali si trovano? Vabbè, sono tutti, però per chi... C'è un elenco vastissimo, Amazon, Buca Bubic, Riccioli, iBookstore, non so adesso neanche me li ricordo tutti, ma dovrebbe stare ancora dappertutto. E poi se volete vi posso dire io tutti quanti. Vai. Qui non ha portata di mano Vado? Sì, vai, sì, vai, vai, vai, vai. Allora, su ebook, sullo store Paul in pratica, poi su Rizzoli, su Amazon, Book Republic, IBS, Unilibro, La Feltrinelli, Media World e Dea Store. Vabbè, ovunque. Ovunque, praticamente. In ogni caso invito tutti quanti a visitare il blog mio o il blog di Dio, dove sì. Lì poi trovate nel dettaglio, diciamo aggiorniamo costantemente con notizie, l'evolversi delle vendite del libro, diciamo noi abbiamo fatto tutto all'insegna della trasparenza e tutto ciò che accade da quando abbiamo pensato al libro fino a quando poi non finirà e tutto sarà tutto riportato sui nostri blog. Sì, abbiamo visto, avete anche addirittura diciamo scansionato quello che è il contratto con la Terraferma, che è la vostra casa editrice, per far vedere proprio che è tutto trasparente fino all'ultimo centesimo. Esatto. Sì, infatti, perché capiamo benissimo se le persone non si fidano, saremmo i primi a non fidarci, però insomma continuando a far vedere tutto la massima trasparenza speriamo di ottenere un po' più fiducia, perché noi ce la stiamo mettendo tutto, perché siamo appunto i primi a non fidarci del solito sistema, del cosiddetto magna, no? E quindi ecco, dobbiamo riuscire a fare qualcosa di meglio e insomma stiamo cercando di dimostrarlo pian piano. E noi poi non ci dimentichiamo. Un'ultima cosa soltanto. Vai. Diciamo che a garanzia proprio delle persone che ci seguono, abbiamo tenuto tantissimo a non passare per onlus, enti di protezione civile, per fare in modo di assicurarci. Diciamo, abbiamo cercato un contatto diretto per fare in modo che qualunque sia la somma che riusciremo a raccogliere, stiamo seguendo l'iter per fare in modo che questi soldi possano arrivare nel modo più veloce alla scuola che abbiamo individuato. Esatto, soprattutto dare un po' di sollievo a dei bambini che hanno perso la possibilità di andare nella scuola che è stata sempre la loro seconda casa. Esatto. Va bene, ringraziamo il Dio e il Diavolo, speriamo di risentirci presto, magari per commentare i risultati delle vendite e scoprire se diventerà anche cartaceo. Ritornate nei vostri mondi, ognuno in quello che insomma che preferisce. Vi ringraziamo davvero di essere stati con noi in compagnia fino a chiusura della puntata. Grazie. E soprattutto io voglio miscredente, ragazzi, non sì, mi deludete. Sì, sì, sì, sì, sì. Lo faremo subito. Lanciate miscredente e vediamo chi vincerà, va bene? Ci lavoreremo su. Ciao ragazzi. Ciao. Adesso ci ascoltiamo. Ciao. Ci ascoltiamo se il regista permette un gran pezzo di Negrita, Dannato vivere. Che è molto bella perché assomiglia a The Lazy Song di sì, Bruno Mars. Ma perché sai, pensavo cambiasse, qui c'era già in sottofondo. C'è un diavolo in te veramente. Sì, e qua ci vorrebbe zucchero. Sì. Ascoltiamocela, The Lazy Song di Bruno Mars. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to dougie. Don't feel like picking up my phone. at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. E dopo aver ascoltato Dio e Diavolo, e direi che in questa eterna lotta ha vinto proprio quest'ultimo, non possiamo non... È un grande, eh? Un grande, cioè, un grande, sì. Ma non penso sia contento Dio di sapere che abbiamo dichiarato un vincitore, non era una sfida. Ma guarda, io dichiaro un vincitore ufficialmente il Diavolo. No, sì, e sì, invece sì, io e Leonora appoggiamo Dio, io e Leonora appoggiamo Dio. Andrea. Quindi due pari. Due pari, però... Io voglio Miss Credente, continuo a dirglielo, fate Miss Credente. Sì, sì, che dicono che ancora si stanno stimpagnando, termine francese, alle risate perché su quella battuta che ha fatto il Diavolo, in effetti, fantastica, sì, molto sul bello. Telefonino di Dio. E quindi ha vinto. Allora, io direi di presentare un ospite che, insomma, ci viene a trovare ogni settimana, così, insomma, conosciuto. Io vado a chiamarlo. Come i due, vai a chiamarlo. Ma insomma... sai, magari un giorno potrà dire come John Lennon, siamo più famosi di Dio. Sì, è vero. Vado a chiamarlo. Lui è un personaggio un po' strano, un personaggio che, diciamo, era un ex medico nutrizionista che è stato cacciato dall'ordine perché ha ucciso con una sua ricetta all'anduia calabrese un malato di ipertensione. Da quel momento lui, per lavare l'onta di questa vergogna, va in giro in tutte le radio nazionali, locali, mondiali, forse anche dell'inferno e del paradiso, ed è con noi qui in diretta Tony Scopelliti per la sua nuova ricetta. Buonasera, basta, buonasera. Tutti mi senti, oddio, diavolo. È stato un piacere. Se l'hai sentito, caro Tony Scopelliti? Assolutamente sì, perché avevo un'interferenza, non è che lo sentivo nel radio. Il mio telefono già si oddio. E lo sentivo parlare. E quindi era lei che faceva interferenza. Esatto. Il nostro Tony Scopelliti. Caro Tony Scopelliti. Scusi che ricarica a bomba la rossa. Sì, lo sappiamo, perché lei col suo accento calabrese ha bisogno di picchiare molto fiato. Ascolti, ma lei dove è stato prima di venire qui su Radio Panorama a darci questa nuova ricetta della cucina tipica calabrese? Vengo ora di Palermo, do Castello a Mare, dove ho preparato il catering per il concerto DJ set di stasera di Skin, ex scanganense. Addirittura, sì. Lei fa il concerto di... E cosa ha preparato? Vediamo un Allora, per Skin, che è una persona che vuole mangiare leggero, perché se smette alla console, sata, balla e fai... Un attimo, diciamo, ovviamente, i nostri cari radioascoltatori e ovviamente ai nostri seguaci su Twitter, di prendere carta e penna. Perché ovviamente, potete mangiare prima di Skin, potete mangiare lo stesso piatto che si mangia stasera Skin. Esatto, quindi carta e penna, mi raccomando, prendete gli appunti per questa ricetta che si chiama... Io non prenderei appunti, però la prenderei a pugni qualcun altro. Comunque si chiama Bresciole Saporite. Come si chiama? I Bresciole Saporite. Non ho capito. I Bresciole Saporite. Bresciole... Gli involtini saporiti. Perché non li chiama involtini? Perché involtini è banale, è italico. Io invece sogno celebre. E quindi si chiamano come? Bresciole Saporite. Bresciole Saporite, ho capito. L'importante è che poi se ne va a voce, per... Sì, lo sappiamo. Allora, l'ingrediente ci vuole... Parliamo per una persona. Per una persona, mi raccomando. Stasera mangiate solo. Anzi, se siete una famiglia di tre, consiglio di prendere una carabina, ammazzare il resto della famiglia e restare solo. Forse me la faccio anch'io questa sera, la ricetta del... Come si chiamano? I Bresciole Saporiti. E lei ammazza sua madre, quindi, perché sa ciò che siete in due. Sono solo stasera. Stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo. No, non canti. No, chi sei? Magari giovanotte. Allora, siccome è giovane. Allora, per una persona ci vuole 3 kg di fesa di vetello. Un attimo, lei ha detto che io sono giovane. Lei quanti anni ha, caro Tony Scopelliti? Ma io non gliel'ho mai detto. No. Io ne ho 46. 46, sì. Proprio preciso. Natranno sono morto a camina. Infatti è un po' come tocco. Già. Vorrei saltare a 48. Allora vediamo se mi fanno un decreto. Allora ci vogliono 3 kg di fesa di vitello. 3 kg per una persona. Sì. 3 kg di fesa, esatto, di vitello. Un provolone piccante o dolce a piacere. Un provolone. Un 6 kg. Piccante o dolce? Anche semi piccante, fate voi. Semi piccante. Esatto. Poi ci vuole la soppressata calabrese. Come? La soppressata calabrese. Quindi è soltanto calabro questa ricetta. Sì, è tutta calabro, non c'è niente. Perché la sta dando qui in Sicilia? È perché è vicino allo stretto di Messina. Ah, uno dice se la va a prendere. Esatto. Ho capito. Poi ci vanno pomodori pelati. Sì. Quindi di una certa età. Lo sappiamo. Perché si sa, l'alopecia colpisce dopo i 35. Certo. Poi ci vuole prezzemolo, che... Quanto? Va bene ovunque. Per una persona. Diciamo. Ma almeno un secchiello. Un secchiello di prezzemolo. Chiede quando fai un castello di seppie. Sì. Chino di prezzemolo. Lei è stato al castello a mare, giustamente. Ovviamente. Un castello, sì, di sale. Poi uova, possibilmente una trentina di galline, chi è giusto, chi è passa, chi è vicino di casa, chi non ci sono cose. Chi non ha un vicino di casa con le galline? Tutti quanti. Cioè. Poi qua è difficile. Tutti quanti, quindi nessuno. Sì. Esatto, vabbè. Tre bottiglie di vino rosso di Cirò. Cioè, appena sente passare un cristiano che aveva una targhetta Cirocci, dice: "Ce l'ho, dammi il bottiglio". Perché solo lui ce l'ha. È una ricetta complicatissima. È complicatissima perché è difficile, ma è buona. Per è molto buona. Questa è di alto livello. Sì, sì. Ma pensassi che a Skin conosceva Ciro prima di venire qua. Skin. I famosi Skin e Ciro. Esatto, c'è proprio la marca. Quando ha iniziato a cantare, Skin era proprio con Ciro. Con Ciro erano Skin Ciro. Sì, sì. E poi ci vuole un bello. Come si dice? Un cuppiceddo di peperone rosso, perché? Cos'è un cuppiceddo? Perché cioè, ci si ascolta da fuori? È un piatto di 3 metri per 8. 3 metri di vasca, sì. Ah, ho capito. Tutto di peperone rosso peccante. Poi ci vuole occhio d'oliva, almeno 3 litri. Certo. Pepe nivoro. Mm-hmm. Non faccia la battuta. No, per no, perché non siamo razzisti. Esatto. Poi sale. Chi? E alla fine. Skin sul palco. Ah, sale, Skin sul palco. Ovviamente. Allora, cominciamo. Vediamo il procedimento. Esatto. Cuocete le uova fino a quando saranno sode. E qui ci siete tutti, avete scritto bene. Sgusciate e tagliate a fettine. Mm-hmm. Qua è difficile perché sono fettine di 1,8 mm ciascuna. Come mai? Se si sciolgo. Se 1,7 mm e 6, bene brutto. 9 certo. È ancora. Devo fare. Sgusciatese. Vabbè, chi Sgusciatese è cosa? No, chi no. È Sgusciatese? È un paese vicino. Ciro Sgusciatese. È esatto, il cognome è un di Ciro. Comunque, poi affettate anche il provolone a soppressetti. Sì. Battete le fettine di vitello. Sì. Le potete battere a quello che volete, magari a scacchi. Ah, battete a proprio come gioco. Sì, si sì, gioca sì. E le battete. Ponete su ognuna di esse il provolone a soppressata. Mi ha sputato in faccia. Attraverso il telefono. Sì. Ma cose grosse. Comunque, la soppressata, le uova sode, nonché il prezzemolo tritato. Sì. Che poi tritato non c'era tra gli ingredienti. Non so ci No, è il prezzemolo tritato. Ah, che è proprio participio passato. Pensavo tritato di carne. Poi salate, pepate, avvolgete la carne legandola con filo bianco. Per forza bianco. Perché se viola perdo colore. Ah, capisco. Capite? È come quando metti a lavare cose bianche con sì, una cosa blu. Sì, sì, che sì, schifo. Certo, certo. Vengono tutte mutande celeste, la cosa scolorata. Poi fate rosolare. Sì. Quindi ci vuole una rosa. Gli involtini ah, non arriva. È proprio la rosa e il fiore. Accanto. Certo. Infatti Skin la portò cucirò. Bagnate con mezzo bicchiere di vino rosso e fatela evaporare. Sì. Poi, e che metto la voce scompellita. E se sì, mi cangiavo. Aggiungete i pomodori pelati e il peperone rosso tritato. Cioè, quindi un tritato a un certo punto spunta la sedia, non so ciunne. Ma com'è? Ma spunta tritato grossolanamente. Che significa? Cioè che tu, chissà, ci pigli un pezzetto di peperone di un millimetro e pa, poi uno di mezzo metro. Lo trita e non lo sì, triti. Esatto, un pezzo di nicchia e un pezzo di grani. E poi cuocete, questo è il problema. Per 400 minuti circa. Ma come 400 minuti? Mi dica subito quando sono in ore 400 minuti io non vengo più ospite. Guardi, saranno almeno 5 ore. Sono quasi 7. Quasi, e non lo so, aspetta, perché 2,40 su 4. E 6 per 6 fa 36. E quindi, sì, è già. 6 per 7 fa 42. E quindi lei non viene più in puntata. Quante ore, quante ore disse lei? Io ho detto 5. Ma 5 ore sarebbero 300 minuti. Ragione, è 400 però. Sono 6 ore e 40 minuti. Mannaggia, ho sbagliato vabbè, di poco. È stata la mia ultima partecipazione. No, ma sogno perché? Contento. Ci vediamo stasera al concerto di Skin e a seguire DJ Borino. Ciao. Salutiamo Tony Scopelliti e noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo che è finalmente in negrita con Dannato Vive. Yeah. Avrei bisogno di sfogarmi e non so più nemmeno piangere. Com'è difficile aspettare quando arrivi alla mia età. Parlarne con qualcuno e non c'è campo in tutto l'etere. E sento il peso delle stelle che non ho afferrato mai, però è qualcosa che ho provato. Al tempo che ho sprecato a far programmi senza agire mai. Stordito, pallido e incazzato, non importa, sono qua. E ho camminato sul pianeta scalzo, disperato e libero. Certe cose che ho provato non le proverò mai più. Ed eccoci tornati in diretta dopo l'ascolto di Dannato Vivere dei Negri. Messo bene. Lo so, molta gente c'è morta in questa posizione. Vedi, il problema è che Andrea non ha la mia stessa altezza, quindi lui è levemente piegato, io mi sento un pirla. Levemente, tra l'altro. Sì. Levemente. Dio mi ha dato l'autorizzazione a scambiare le vocali. Scusami, non ne parlerò mai più. Allora, siamo qui per i saluti finali, vi ringraziamo per essere stati con noi per tutta la puntata, ringraziamo soprattutto Marco Dei Cosi, Dio e il Diavolo, due presenze veramente pazzesche. Simpatiche, pazzesche. No, anche Marco è stato un grande, è vero, non avevamo commentato, un po' come quello là di quella volta. non ne parliamo più dell'uomo più triste del mondo. Come stai? Bene. Ma perché lo dici così? Ehi, ma pronto? Sei vivo? Ci sei? Sì. Ah, ecco, era una citazione di un'intervista una tra citazione. Le più tristi mai avute in 4 anni di esperienza. Vabbè, anzi decisamente la più triste. Vabbè. Sì, veramente. Allora, va bene, vi ringraziamo tutti quanti. Ci ritroviamo ovviamente mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, alle 20.30. E ricordiamo che domani riprenderà la programmazione, anzi per la prima volta in questa radio, la programmazione di Positive Vibration, sempre dalle 21 alle 22.30, se non sbaglio, alle 22. Alle in linea con la filosofia reggae. Ritornano i ragazzi di Positive Vibration. Esatto. L'audio è... come cazzo si chiama? Riccardo come? Non mi veniva. Come ci cazzo si chiama? Ma questa è la pubblicità personalizzata. Se non ci infili una cazzata sembra registrata. Salutiamo Riccardo. Mi dispiace che Antonio non si ricordava il tuo nome. Vabbè, la prossima volta dirà Onda in Onda condotto da Andrea Alessandro. E come cazzo si chiama? E così si vendicherà. Va bene ragazzi, allora vi ringraziamo. Ricordatevi del concorso Miss Credente, sperando che non se lo dimentichino i nostri buoni Dio e il Diavolo. Comprare un telefono a Dio. Comprare un telefono a Dio e soprattutto comprate voi il libro Idiozie e Diavolerie, 5,99€, e aiuterete i terremotati dell'Emilia. La scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa di Massa Finalese, se non sbaglio. Esatto. Ok ragazzi, quello era Alessandro, lui era Andrea e io ero quel pirla di come Antonio. Si chiama? No, non mi ricordo. Come cazzo si chiama? Antonio. Boh, ci pensiamo, ci vediamo mercoledì. Ciao.